Beh, abbiamo organizzato una manifestazione, un corteo che riprende i temi con cui siamo andati in piazza in questi ultimi mesi, direi in questi ultimi 2 anni in realtà, e che hanno, che abbiamo portato in piazza in particolar modo il 2 dicembre scorso con lo sciopero generale. Una manifestazione che è un momento, diciamo, di rilancio della mobilitazione, che tiene in vita la necessità, insomma, di continuare a mobilitarsi, perché noi crediamo che quello che arriverà dovrà essere un autunno caldo, insomma, dovranno esserci mobilitazioni su quei temi lì. Quindi il no alla guerra, il no all'economia di guerra, il no all'invio delle armi, la lotta per il lavoro per tutti, con lo slogan lavorare meno, lavorare tutti, che è un po' quello che caratterizza anche le mobilitazioni in Francia in questo periodo, tema legato, diciamo, anche al futuro lavorativo e quindi alle pensioni, la lotta per il salario, la lotta per il reddito, la lotta per il welfare. Insomma, ci sono molte parole d'ordine che un po' tutti conoscono, ma che bisogna avere il coraggio di portare dentro a un percorso di tipo conflittuale, non concertativo. Faremo questo, quindi un corteo che parte alle 10, concentramento alle 10 davanti al Teatro Testoni, e poi da lì si dirama verso il centro per tornare poi nel quartiere Navile, insomma, toccherà un po' di posti particolari, insomma simbolici, ecco, rispetto alle lotte che stiamo facendo, dall'INPS al CUP, alle case sfitte, cose di questo tipo. Da tempo SGB porta avanti anche una campagna sui cosiddetti working poor, cioè persone che pur lavorando hanno stipendi da fame. Noi abbiamo aperto quella che abbiamo definito la campagna contro i salari poveri, il lavoro povero, che sono determinati da contratti regolarissimi. Cioè, fino a poco tempo fa il dibattito nel nostro paese era di questo tipo: ci sono contratti pirata che rendono povero il lavoro, che non permettono ai lavoratori a cui vengono applicati di avere una vita dignitosa. In realtà era una grande mistificazione, perché quello che rende povero il lavoro è un sistema di contrattazione che va avanti in verità da qualche decennio e che è arrivato al suo apice in questi anni con contratti regolarissimi che danno però addirittura 2,50 euro, 4,70 euro all'ora ai lavoratori, appunto, che sono regolari e che svolgono tra l'altro lavori importanti. Noi il 1° maggio concluderemo la manifestazione sotto la vetrina dei contratti da fame, che è quella che abbiamo fatto in via Zampieri in una delle nostre sedi, l'aggiorneremo e ci saranno delle sorprese. Per esempio metteremo delle buste paga di lavoratori di un lavoro molto particolare e importante, che guadagnano veramente una miseria, che renderemo poi noto, insomma, quel giorno, e altre buste paga. È una campagna che in realtà molti cercano di cavalcare pensando di rilanciare la contrattazione, ma se si rilancia la contrattazione si rilancia la povertà. Povertà vuol dire 11 milioni di persone nel nostro paese che pur lavorando non hanno un reddito che arriva, come dire, sta poco sopra o addirittura poco sotto la soglia della povertà definita dall'Istat. Quindi è una cosa molto molto importante. Ci vuole un'altra cosa. Ci vuole un salario minimo definito per legge. Noi proponiamo dal 2 dicembre 12 euro per legge, e con dal salario minimo poi la contrattazione, la mobilitazione, il conflitto deve andare a erodere dei pezzi di profitto, insomma. Questo è quello che pensiamo noi. Quindi anche la soluzione, il dibattito che si è aperto prevede soluzioni molto differenti fra loro. Il lavoro povero non si sconfigge con la contrattazione che c'è stata in questi decenni, si sconfigge in un altro modo. Oltre a noi, di sindacati, si sta l'Unione Sindacale Italiana, si sta in Coba, si sta l'Unione Inquiline, più un'altra serie di forze politiche e sociali, da Sinistra Unita a Peace Link, il coordinamento contro tutte le autonomie differenziate. Insomma, è una manifestazione chiaramente aperta a tutti.